linea dura del governo Monti. Oggi vertice a Palazzo Chigi per bloccare la rivolta dei no-TAV e soprattutto dei banchieri. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più.